140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Blue Note, Milano. E sottolineo se, un omaggio in vinile a uno dei più grandi autori italiani, Giorgio Calabrese, e a un'epoca. L'idea è degli Alma Libre e Zibba. L'idea in sé è nata nel momento in cui, durante il premio Bindi, nell'anno in cui lo vinsi, durante una chiacchierata con Giorgio al bar, ci bevevamo un pigato, io gli ho portato, sai, al Bindi all'epoca si cantavano due canzoni, una propria e una di Bindi, e mi era toccata Se ci sei, che è stato un brano che mi piace molto. E io ho portato a Giorgio a autografare il disco. E lui, un po' commosso, si è firmato, oltre che Giorgio Calabrese, si è firmato Il Sopravvissuto. E abbiamo parlato di quanto, cioè, stranamente, lui sia sopravvissuto a molte delle persone per cui ha scritto canzoni all'epoca. E quindi mi è venuta l'idea di fare un omaggio a un vivente, no? Non aspettare, insomma, che sia dall'altra parte, perché forse se lo può anche godere un po', anche solo come soddisfazione. Sai, Giorgio è stato, fra gli altri, come Sergio Bardotti, come tantissimi altri autori italiani, che non sono conosciuti ai più, perché poi gli autori rimangono sempre un po' nell'ombra rispetto agli interpreti, però molto importante, cioè, oltre a scrivere canzoni è stato autore di festival importanti, da Fantastico al Festival di Sanremo, tantissime cose televisive che all'epoca avevano anche un grosso rilievo a livello musicale e culturale. E quindi è un omaggio, come hai detto tu, un po' a un'epoca, a un momento in cui l'Italia era culturalmente, secondo me, al suo apice, anche a livello cinematografico, era proprio un'altra cosa. E da qui anche la scelta di farlo in vinile, per rispettare, tra virgolette, per quel modo di ascoltare la musica che era proprio di quegli anni. Avevi un repertorio vastissimo, tra cui scegliere, ne hai scelte 10, sono 10. Come hai fatto? Ho fatto che ne ho scelto una quindicina, poi l'ho mandata a Enrico De Angelis, che ha fatto delle cancellature, ne ha messe altre, mi ha fatto dei suggerimenti, mi ha fatto dei complimenti per alcune scelte, e insieme, fra le mie scelte, le sue, le nostre, insomma, io con Stefano, il nostro chitarrista, ci siamo visti più volte a provare ad arrangiare con due chitarre i brani per vedere quali riuscivano meglio, dove potevamo esprimerci, anche secondo il nostro gusto musicale. E quindi con un po' di direzione artistica di Enrico De Angelis siamo giunti a questi 10 brani. Abbiamo scelto di non farne molti di più perché in realtà era così bello che il vinile potesse, insomma, suonare in tutta la sua pienezza di suono, cercando di stare quindi in meno minutaggio. Tu mi insegni che il vinile suona meglio. E quindi abbiamo fatto questa scelta. Quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Parlare di un autore, siccome io lo sto un po' diventando, perché ho scritto questa cosa per De André nell'ultimo disco, ho scritto per Finardi il disco scorso, e mi hanno proposto un bel contratto, diciamo, adesso editoriale, per scrivere per loro, la Warner, quindi sto iniziando a fare questa carriera, e ogni tanto mi rendo conto che dietro a tutti i ragazzi che cantano, dei talent magari che vendono centinaia di migliaia di copie, ci sono autori che sono lì come degli scribacchini a fargli le canzoni e che sono proprio all'ombra. E questo è un po' quello che è successo, che succedeva anche all'epoca, no? Mi fa sorridere il fatto che comunque non sia cambiato tanto il mondo. Cioè Mina e una ragazza di quelli che escono adesso dai talent hanno la stessa sorte, un autore che gli scrive canzoni dietro e una bellissima voce di interpretarle. Noi che siamo cantautori, che siamo dall'altra parte, quindi voce orribile, cantiamo solo le cose che gelosamente abbiamo scritto noi, secondo me tributare questo mondo, insomma, facciamo anche una cosa particolare, parliamo di un altro aspetto della musica italiana che in realtà è quello che poi porta i soldini in cassa, quindi è un aspetto molto importante, no? Sulla voce orribile lasciamo giudicare gli ascoltatori, che secondo me la penseranno diversamente, ma Il vinile si intitola E sottolineo sì, che è una poi uno dei versi più famosi della musica italiana. Se uno sente E sottolineo sì, sa già di che canzone si tratta. Tu hai scelto brani noti come Se domani, ma sei andato anche a scovare delle chicche, delle vere chicche, alcune poesie, alcuni divertissement deliziosi. Sì. Sì, guarda, mi viene in mente Diano Marina, che io non conoscevo, la prima volta che l'ho messa su, adesso mentre facevo ricerca, l'ho sentita nella versione di Bruno Lauzi, che è strepitosa, e lì abbiamo cercato di avere il più rispetto possibile negli arrangiamenti, perché era veramente arrangiata egregiamente. Pensavo che Diano Marina l'avessi scelta perché per via dell'astigiano, visto che tu sei un astigiano d'adozione quasi. Sì, mi faceva molto ridere, che io mi sono immaginato, magari non è così, poi lo dovrei chiedere a Giorgio, perché ultimamente riesco a sentirlo poco e non sta benissimo, chiacchieriamo poco e parliamo solo di cose frivole. Mi piacerebbe capire meglio, perché io mi immagino lui e Bruno Lauzi seduti a un tavolo che guardano Paolo Conte che canta su un palco e che lo prendono in giro, perché quello è quello che esce un po' dalle parole, secondo me. È molto buffa questa canzone, secondo me è strepitosa, ci sono delle frasi, cioè le donne avevano quell'aria un po' volgare che hanno le vedove quando bevono champagne. È una poesia, è meravigliosa ed è un'immagine molto bella. You, how is this to be you? L'astigiano cantava con la voce sua assassina. La luna sopra Diano Marina ardeggiava vicina nella notte di caucciù. You, how is this to be you? L'astigiano insisteva con la gente che ci stava. E in tante di queste canzoni ci sono cose del genere. Ciao ti dirò è un, per esempio, che è in fondo poi una canzonetta, no? È stato il primo brano rock considerato la musica italiana, prima l'ha cantato Gaber, poi l'ha fatto Celentano, una versione bellissima, e noi l'abbiamo per esempio presa e portata nel mondo di Tom Waits, che è uno dei miei grandi ispiratori, e l'abbiamo arrangiata come se fosse un brano parte di Heart Attack and Line, quindi quel disco che aveva, per quanto mi riguarda, le atmosfere waitsiane più innovative e interessanti. E questo abbiamo fatto con altri brani, mentre alcuni li abbiamo lasciati più scarni, come Senza Parole, che l'abbiamo proprio arrangiata soltanto io e Stefano, voce e chitarra, molto libera, molto aperta, senza darci un tempo preciso, facendola come ci veniva, come Il Disertore, che l'abbiamo lasciata abbastanza simile all'originale, a quella cantata da Fossati, cercando in qualche modo di... l'abbiamo suonata live con due chitarre dal vivo per dargli un'atmosfera che fosse di condivisione. Quella è una canzone che mi ha emozionato tantissimo, un po' perché io sono un disertore, cioè io ho disertato il servizio militare a mio rischio e pericolo all'epoca, perché non credo assolutamente nelle guerre, non credo che io debba pagare pegno perché non voglio andare in guerra, quindi ho deciso di disertare, un po' perché questa canzone tutte le volte che la sento mi fa commuovere, tant'è che quando l'ho cantata, mentre la stavo cantando, mi sono messo a piangere, quindi questa è la riprova che nelle parole di Giorgio c'è qualcosa di mio, insomma. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì, ma io non sono qui egregio presidente per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Nelle parole di Giorgio c'è anche molta Italia del passato. Abbiamo citato il fatto che fosse un'altra epoca, e si vede dal disco in vinile. Lo racconto agli ascoltatori perché non si vede dalla copertina, che è proprio quella che si ispira ai dischi che si compravano un tempo. C'è tanta Italia anche nei testi. C'è tantissima Italia nei testi e c'è tanta di quell'Italia che era nel periodo forse migliore, parlo insomma dell'Italia degli anni 60, dove c'era culturalmente il cinema a bomba, la musica a bomba, l'arte era in un periodo meraviglioso, si faceva tutto questo con una grande voglia, c'era ovviamente c'era un benessere diverso, si usciva da una situazione tremenda, si andava verso la felicità, quindi l'atmosfera nel cuore delle persone era differente, c'era voglia di canticchiare quanto a volte di temi importanti. Poi sai, stai parlando con un cantautore che porta Totò tatuato sul braccio, quindi c'è cioè uno che delle cose di quell'epoca veramente ci vive, ci campa, io non posso fare a meno. Mi piacerebbe che il mondo fosse in bianco e nero, non perché non mi piacciono i colori, ma perché è un pochino più interessante. Ma quando dai che ti taggati un frigidero, se aspetti questo inverno su che vede sta, ti metti in fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovare stanchi morti e sui tenuti, pensi a Roma che te da parte obitiro, facendo me se te va mai ti duvia che c'è di via, quando torna la campagna ti modici un po'. Quanto si è divertito a rifare, registrare questo capolavoro della musica brasiliana, già ridi, perché è un frigideiro, insomma, è un divertissement puro. A me fa sempre molto ridere quando lo ascolti, perché per chi non conosce il genovese, è un amico che consiglia a un altro di comprarsi il frigorifero, perché fra un po' viene l'estate, e come fa con la roba che gli va male? Perché era il momento in cui il frigorifero non ce l'avevano tutti in casa, ed era la musica che si usava per lo spot di Carosello della vendita dei frigoriferi. Quando parli di quell'epoca lì proprio ti illumini. Sì, mi sembra che fosse tutto, magari no perché non ci ho vissuto, mi sembra che fosse tutto più facile. Sto vivendo un periodo particolare della vita e mi rendo conto che mi assomiglio di più a mio nonno che non a mio papà. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Stadium Genova. X Factor, parte la macchina del talent di Sky. A Genova le prime audizioni con i giudici Elio, Morgan, Mika e l'unica donna, Simona Ventura. Intanto loro sono molto galanti, tutti gli altri giudici, colleghi giudici, quindi insomma uno si trova anche bene in questo ruolo, però sono anche un po' un vigile urbano come sempre, quindi cerco insomma di tenere un ritmo tra i giudici, che sono tre grandi artisti e da quale ho solo da imparare. Vigile urbano, ma quest'anno anche un po' interprete, perché mica parla benissimo, sì. Però tu gli dai una mano. No, io gli do una mano in italiano, insomma, delle volte delle parole non le conosce, però devo dire che è straordinario nel suo italiano di 3 settimane. Io non, peraltro questa è una doppia valenza, io così imparo molto meglio l'inglese, il mio inglese che ha sempre bisogno di miglioramento, per cui questa è ha una doppia valenza positiva. Abbiamo terminato ieri alle 2 della mattina. E ieri è nella tavola di giudici. For the last 3 I was seriously like this. I was like just yes, just go away, I'm too tired. Per gli ultimi 3 era steso e ha detto sì va bene, non ce la faccio più, andate via. Sfide vinte da Simona Ventura, il fatto che nessuno più si chieda ma Simona Ventura quanto ne capisce di musica per giudicare? No, perché ognuno ha la sua visione del panorama musicale. Io ho dei progetti, ho una visione dell'insieme, ho una visione di progetti anche dopo X Factor, soprattutto di persone che possono avere un'opportunità, che possono avere una vita al di là dello show, e questo ho sempre fatto. E questo mi fa piacere che nessuno si chieda, ogni tanto succede, però è giusto che sia così, però insomma questo mi fa piacere, mi dà sempre nuovi stimoli per far di più e per cercare nuove opportunità per i ragazzi fuori da X Factor. Ogni anno riusciamo veramente a trovare più talenti, perché l'anno scorso non solo Chiara ha avuto questo enorme successo molto meritato, ma anche Davide farà Romeo e Giulietta di David Zardo, quindi insomma i ragazzi, i piccoli talenti di X Factor crescono e di questo sono veramente felice. Infatti Davide mi ha parlato di te in termini molto materni, perché tu continui a seguire questi ragazzi. Sì, io li non potrei dal punto di vista contrattuale, perché comunque sia proprio dalla Psycho di Simon Cowell non viene permesso ai giudici di prendere il management dei ragazzi, e questo insomma si può capire che è un conflitto di interessi molto grosso, no? Per cui mi sembra anche giusto, però io nonostante questo continuo a seguirli, perché molti hanno bisogno, non si possono abbandonare in questo mondo della musica, devo dire in questi anni ho anche cementato un bel rapporto con Sony, quindi ci scambiamo e condividiamo delle scelte e di questo sono felicissima. Esibirti davanti a Elio, Morgan, Simona e Mika è una cosa indescrivibile. Perché scegliere di partecipare alle audizioni di X Factor? Perché X Factor ti dà una chance, anche se Se è difficile, però te la dà, sta a te poi sfruttarla, ecco. No, l'esperienza è stata positiva, molto bella, diciamo, una bella esperienza che i ragazzi devono fare prima di affrontare determinate cose, però so che mia figlia era abbastanza capace, è abbastanza capace, solo che la giuria ha deciso così. Pazienza, si accetta anche questo. Quanti anni ha? 16 anni. Beh, insomma, quindi tempo ce n'è. Sì, il tempo c'è, la prima esperienza di una cosa così importante, però ci aspettavamo di più da parte della giuria. Comunque mia figlia è sempre stata brava per noi e sono soddisfatta di lei. Ci si riprova anche magari con altri talent? Sì, non ci si arrende, si continua. Elio, come ti trovi in questa edizione così internazionale di X Factor? Senza baffi, mi trovo un po' senza baffi, quindi nudo, però diciamo che il nudo c'ha i pro e i contro, io prendo solo i pro, ed è bello, diciamo, mettersi in mostra, viene fuori il lato esibizionista, quindi senza baffi si vede tutta la faccia, e poi soprattutto ho un aspetto più sobrio e più alla fine vero, ecco, senza nessuna impalcatura, voglio venire fuori per quello che veramente sono, voglio che esca il mio animo. Ma quando ieri al casting Mika si è messo a cantare la canzone Mononota? Ma vedi, Mika è veramente una sorpresa continua, perché vabbè, io ovviamente lo conoscevo solo come cantante, no? E mi sembrava una roba veramente strana che entrasse a far parte del quartetto, e poi conoscendolo devo dire che sto scoprendo una persona, vabbè, sensibilissima, questo era già chiaro dal suo modo di esibirsi, no? Ma anche molto intelligente, sveglia, con un gran senso dell'umorismo, è una sorpresa continua, e oltretutto impara velocissimo, proprio forte, anche perché i giornalisti ancora la chiamano la canzone monotona, lui invece oltretutto, infatti, no quindi dico talmente, diciamo, sensibile da cantarmi la canzone, sai, immagino che sia anche stato un modo per rompere il ghiaccio, non è che sono così ingenuo da pensare che lui si sia visto tutto il festival, no? Però comunque è forte. X Factor comunque rappresenta un punto di lancio, quello sì. Comunque si sa, cioè, uno che gli piace cantare, l'unica strada che deve fare comunque è comunque passare, cercare di passare da un talent e poi man mano coltivare quello che si è fatto dall'inizio. Poi quello che hanno detto, va bene comunque. Ci si riprova se non è andata? Ci si riprova, sì, poi vediamo, no? Tanto riprovare non costa niente, vediamo un po' come va. Non ci sono problemi, non ci sono. E tornerò all'origine, attorno a te che sei per me l'essenziale. Che esperienza è stata? Bellissima, emozionante. Sinceramente mi sono sentita un po' impaurita di Simona quando ha detto no. Mi è dispiaciuto un po', però vabbè, non fa niente. Perché partecipare ai casting di X Factor? Beh, è stato sempre il mio sogno fin quando ero piccola. E quindi questa è la strada che voglio percorrere, cioè diventare una cantante, quindi per questo. Sono curiosa di sapere quanti anni hai. 16. Morgan, in questi anni sei riuscito a trovare sempre qualcosa che funziona per il grande pubblico, anche se lavori su scelte molto impegnate. Ma come fai? Il mistero di che cosa fa differire, cosa, la differenza che c'è tra qualcosa che funziona per un grande pubblico e qualcosa che non funziona. Non ci sono certezze in questo campo, però comunque c'è la volontà di... La mia grande passione, ecco, per la musica. Passione, poi, che viene dalla parola pathos greca, che ha a che fare anche con il patire, no? La passione, chissà come mai. Però ovviamente c'è anche tutto un aspetto divertente, un aspetto comico. Quando si dice dramma, non si intende soltanto il lato triste della questione. Dramma comprende anche il lato ironico, allegro, comico e esilarante, e dentro il quale c'è appunto il tragico e il comico. Nel drammatico ci sono questi due elementi, mi piacerebbe approfondirli entrambi. E